Benvenuti gentili ascoltatori a Absolute Beginners, dilettanti allo sbaraglio, o meglio, musicisti ormai assurti agli onori dei grandi media. Buonasera, benvenuto Sasà. Ciao Babe, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sera parliamo di un personaggio che io sono sempre stato convinto, già da 3 anni, da quando lo conosco, che avrebbe dovuto arrivare a un ben maggiore successo, quantomeno, ok, non dico di vendite, ma almeno di critica, che ha avuto, ma non abbastanza. Sto parlando di Chino Amobi. Ma sì, chissà, infatti essendo pseudo giovane, forse classe 84 e avendo prodotto i primi due album nel 2017 e 16, magari chissà, ha tempo per avere più merito riconosciuto, più credito, e questo lo vedremo. Però parliamo di un ragazzo che sicuramente, beh, la sua musica non va a incontrare i gusti del mainstream e delle classifiche, no? No, no, non di certo. Questa volta di nuovo siamo alle prese con un crossover di generi vari, cose che abbiamo affrontato già fatte volte. Almeno 3-4 gruppi precedenti si sono dedicati al miscuglio di generi precedenti. Chino Amobi però lo fa in maniera non certo ammiccante, anzi lo fa per scioccare. E poi c'è sempre un sentore di cupezza e di angoscia in ogni singola traccia che permea questo Welcome to Paradiso che adesso vi facciamo ascoltare. O death hath reared himself a throne in a strange city, Paradiso. Far down within the dim west, where the good and the bad and the worst and the best have gone to their eternal rest. There shrines and palaces and towers are not like anything of ours. Oh no, ours never loom to heaven with that ungodly gloom. Time-eaten towers that tremble not, resemble nothing that is ours. Around, by lifting winds forgot, resignedly beneath the sky, the melancholy waters lie. No holy rays from heaven come down on the long nighttime of that town. But light from out the lurid sea streams up the pure and silent, up thrones, up long forgotten bowers of sculptured ivy and stone flowers, up domes, up spires, up kingly halls, up fanes, up Babylonian walls, up many a melancholy shrine whose entablatures intertwine. The mask, the vial, and the vine. There, open temples, open graves, are on a level with the waves, but not the riches there that lie in each idol's diamond eye. Not the gaily jeweled dead tempt the waters from their bed, for no ripples curl, alas, along that wilderness of glass. No swellings heap the winds may be on a far-off happier sea. So blend the turrets and shadows there that all seem pendulous in air, while from the high towers of the town death looks gigantically down. But lo, a stir is in the air. The wave, there's a ripple there, as if the towers had thrown aside and slightly sinking the dull tide, as if the turret tops had given a vacuum in the filmy heaven. The waves have now a redder glow, the very hours are breathing low, and when, amid no earthly moans, down that town shall settle hence, all hell from a thousand thrones shall do it reverence. Death to some more happy clime shall give his undivided time. color bands from Kina and Freddy. My dear, do color bands from Kina and Freddy. My Rahang Womb, do I have more? Do I have more? Some of the band, the man, I did not have more. CDI, CDI, CDI. Just over here, do it for the side. My Come dicevamo, non è certo musica per tutti i giorni, a me piace molto, non dico di no. Industrial mi piace, ci sono praticamente cresciuto e Cino Mobi ne usa a piene mani. E uno pensa a Cino Mobi essendo un afroamericano, afroamericano sui generis tra l'altro, perché è una seconda generazione, i suoi genitori vengono dalla Nigeria, lui è cresciuto in Virginia e i suoi genitori, preoccupati del fatto che lui non si sarebbe potuto inserire facilmente, cosa che poi puntualmente è accaduta, si sono ben guardati da insegnargli la lingua, la loro lingua originaria, che è uno dei tanti dialetti che possono essere trovati in Nigeria. E Cino Mobi si è trovato quindi, da sue stesse interviste, due volte non accettato, quando frequentemente andava a trovare i parenti in Nigeria e poi mai definitivamente nella sua terra dove è nato, perché lui è nato in Virginia. Sì, questo si riflette un po' nell'etichetta che poi lui ha fondato, che si chiama NON Worldwide, Non Worldwide, dove appunto la sua idea è che questa etichetta possa promuovere gli artisti africani che vengono da questa diaspora, che probabilmente negli Stati Uniti ha trovato molti afroamericani, africani sono spostati lì come la famiglia di Cino Mobi, e il suo intento è quello di dare voce a queste persone, a questi artisti. Di sicuro sta dando voce a se stesso, e l'idea di avere una non, un'etichetta come del genere, non è affatto male. Siamo sempre nel solco del do it yourself iniziato dal punk hardcore, di cui abbiamo parlato varie volte in queste puntate, però fatto in quest'ottica, come dire, c'è anche il solco di Amiri Baraka e di tanti indipendentisti nazionalisti neri afroamericani, una tradizione politica che Cino Mobi conosce bene. We'll be right back. Siamo qua ancora Absolute Beginners con Cinomobi e abbiamo oramai ascoltato qualche pezzo del suo ultimo album Paradiso 2017 e ci tenevo a sottolineare che Cinomobi dice: io rifiuto l'esperienza passiva di ascolto, io voglio offrire al mio ascoltatore suoni attivi che lo sveglino, e forse nei suoi intenti, quelli della sua etichetta, c'è anche di svegliare un pochino la coscienza afroamericana. Non solo in America, ma anche in Europa e in tutto il mondo, insomma. E prima di produrre come Cinomobi, il ragazzo produsse musica tra il 2009 e il 2014 come Diamond Black Hearted Boy. Produsse un paio di album che sono, potete trovare su internet, salvo poi decidere di togliersi di dosso questa maschera sotto questo nome alternativo e di produrre sotto il suo vero nome proprio. Non so, Babe, dimmi tu, non a proclamarsi un leader di un movimento, ma forse per avere un rapporto più onesto con quello che vuole trasmettere. Beh, l'idea di svegliare nel 2017, anno di uscita di questo Welcome to Paradiso, già il nome parlava di paradiso, poi in italiano, significa tante cose probabilmente, queste sono le nostre interpretazioni. Di sicuro è un personaggio che, avendo vissuto la condizione doppia di figlio di emigrati e afroamericani negli Stati Uniti, a parte quello che sta succedendo, ma i problemi Black Lives Matter, rivolte nei ghetti americani datano alla fine degli anni 60, è un problema che si è sempre trascinato e non è mai stato risolto. Avere questa concezione e vivere in una cultura pop di massa che è sempre mirata a un ottimismo, direi a un finto ottimismo, direi che lo giustifica ampiamente nel suo intento di svegliare o terrorizzare, perché la sua musica è anche piuttosto spaventosa, ricorda industrial metal di gruppi britannici di fine anni 80 come i Godflesh, non certo musica soul, che era poi soul pop venduto ai bianchi americani negli anni 60-70. But they aren't dragging me down, they're picking me up. The wind around me has picked up to terrifying speeds, yet I can see through it. My hair hasn't moved and my skin is dry. I feel the rain and the wind. I see the lightning and the debris, yet I remain unscathed. Why? Whispers from the bottom of the Atlantic that echo and become shouts are all that's propelling me forward and up. The water around me starts to move in a spiral motion, but I tread still. We'll be right back. strange city, Paradiso. Far down within the dim west, where the good and the bad, and the worst and the best, have gone to their eternal rest. There are shrines and palaces and towers, not like anything of ours. Oh no, ours never loom. To heaven with that ungodly gloom, time-eaten towers that tremble not, resemble nothing that is ours. Around, by lifting winds forgot, resignedly, beneath the sky, the melancholy waters lie. No holy rays from heaven come down on the long nighttime of that town. Beh, questo è sempre Cino Mobi, siete sempre su Absolute Beginners. 2017, siamo veramente vicini. Non so in quanti gentili ascoltatori e ascoltatrici di voi conoscono Cino Mobi. È strano, prima parlavamo di riconoscimento di critica, lo ebbe. Nel 2017, se non ricordo male, la rivista inglese The Wire, non dico una rivista proprio per adepti, ma abbastanza conosciuta, elesse questo Welcome to Paradiso come disco dell'anno. Sì, ciò non vuol dire, cioè è un parere di qualche esperto, qualche critico di questa rivista, che sicuramente non si rifà a nessun tipo di classifiche di vendite, ah, no, di streaming, purtroppo, io dico purtroppo perché questo album è fantastico. E non so, mi viene in mente il Festival di Sanremo, il premio alla critica, cioè forse quello che veramente merita di essere accreditato e di raggiungere un gran successo, però insomma, vabbè, diciamocelo, come dicevamo prima, i suoni, i prodotti che stiamo ascoltando in questo album sono, non voglio dire ostici, ma sono speciali. Sì, poi non so neanche se definirlo avanguardia. Poi ha senso parlare di avanguardia nel 2017? Ma questo io non lo so, però una cosa che ci renderemo conto anche con i prossimi ascolti di questo album è che Cino Mobi nasce sin da 12 anni, ha iniziato a giocare con la musica, ma lui è anche un pittore, un artista figurativo. Questo secondo me, quando incontriamo musicisti che giocano anche con altre arti, questo si riscontra sempre nel loro prodotto musicale. What you did not want to know. what you were too scared to know. Cause we decided, Cinemobi è interessante come personaggio sotto tanti punti di vista e si capisce benissimo che ha una certa cultura, come dire, e che effettivamente ha fatto l'università anche dai titoli delle sue canzoni. La penultima si chiamava Anti-Keimenon, che vuol dire in greco, se non vado errato, antitestualità, contro i testi, insomma. E la seconda invece si chiama Nkisi. Nkisi è una cultura dell'area congolese, quindi Africa centro-occidentale, non molto distante, molto vicina probabilmente al suo territorio di origine, che è il sud della Nigeria. Sì, ma poi l'album Paradiso inizia con una voce narrante che recita The City in the Sea, che è una poesia di Edgar Allan Poe, quindi sicuramente parliamo di una persona istruita, cioè questo è chiaro sin dall'inizio e Chinyomobi forse è orgoglioso di questa cosa. Orgoglioso e diciamo anche un pensiero critico su tutto quello che lo circonda, e quindi Sì. nei suoi testi, che poi sono pochi, spesso sono campionamenti, e tra i campionamenti avrete sicuramente sentito o riconosciuto Buena Vista Social Club, che era un film fatto da Wim Wenders a metà anni 90, che ha un po' sdoganato una certa immagine romantica, se vogliamo anche positiva e ottimista, di Cuba. Bene, lui lo campiona e lo utilizza a modo suo, in maniera, boh, direi, quantomeno cupa, se non apocalittica. Questo è un modo anche, di nuovo, per demistificare, tutta una vulgata, un pensiero che immagino, specialmente negli Stati Uniti, ma anche in Italia, tramite la propaganda della pubblicità, viene sempre mostrato come, positivo, l'ottimismo del futuro, un ottimismo del futuro che evidentemente molto spesso è falso. È opinabile e sicuramente beh, Chinyomobi appunto si mostra che per fare critica o per chiedersi delle cose non c'è bisogno, non sono necessari fondamentalmente i testi, ma anche solo la musica può bastare. Metal and future fuel, like a love, I feel, I feel something. Some days I feel nothing. That's a real one, rare one. From the birth to perish, my body. These party boys get pissed off. Off more often, so a hawk spit. Talk shit, grab more balls than chick. Tall on the top, loving, fall with it. You can't see me, this back was ready, cause pitch black. Oh, feeding time for the walls in my arsenal. I explode on holes, to the holes only partial. Spielberg, I take that shot like an artful. The triple entendres on top of. Fact that it can leap flame like cork lava. You stop, let's bust right for goodbye. You're wasting my time, dog, I'm off. Got buddy flow, buddy holes, leave holes in your buddy, bro. I stiff niggas, never forgive niggas, I always outlive niggas. Amrita in the goblets, the rice bristle. Vanillin and halo filled with piff, get you lifted. Set up and shifted, should be the fifth. Because a man's a bitch and my aura's on fecal matter, I'm a shit. Got body flow, body holes, leave holes in your body, bro. They stiff niggas, they stiff niggas, they stiff niggas, they stiff niggas. I can never forgive me. Tell him I can. Tell him I can. I might blow. Tell him I can. I might blow. Tell him I fall. Stressing, stressing, stressing. It's a pendulum shift tonight. I detest him. Searching for catharsis every step that I take. It's the place where I started from. You're the home, you're the home, you're the home. listening to Nine Worldwide Radio with Chino Amobe. Amobe. Amobe. Amobe. Amobe. Amobe. Amobe. This world is without end. This world is without end. This world is without end. Demolition, towers of strength, confusion of tongues, the rest is silence, black blood of freedom. Only those wash away the sins of history, the empire of knowledge, darkness of space, a statement of disorder. Empathy is mine, sympathy is yours, the problem of sympathy. Will you walk with me? I have walked. What shapes can live? Only bodies that matter. Let us not lie to ourselves. The occult is unstable. Beware of the gamblers. The invisible fog, soul of the damned, alone in the vast forest of elders, what formless forms can you sense? Instrument of destruction, because I am flesh, the dark temple, a vortex of vengeance. Chino Mobi, Absolute Beginners, questo brano si chiamava addirittura Polizai, ma c'è anche un brano che si chiama Genova. Mi viene a pensare che Chino Mobi sia ben conscio di quello che succede in Europa, di quello che è successo in Europa in questi ultimi 10 anni almeno, dalle rivoluzioni arabe perlomeno. Quindi un'immigrazione difficoltosa, sempre più contrastata dalle istituzioni europee. Ragazzi che hanno cercato di passare per la Liguria, andare in Francia, non ci sono riusciti, tutti gli interventi della polizia di confine al Brennero, quindi la polizia austriaca, quindi polizai. Sì, volevo sottolineare che noi stiamo facendo ascoltare i nostri, a chi ci segue a Paradiso, questo album del 2017, ma l'album del 2016, un EP, si chiama Airport Music for Black Folk. E si ricollega al discorso, Babbe, che facevi tu adesso, oltre a ricollegarsi al famosissimo Music for Airports di Brian Eno, e appunto affronta le tematiche sempre questo tipo di musica, quindi non con dei testi cantati in maniera ritornello strofa, ma con spoken words, con dei discorsi fatti al microfono, affronta proprio la differente esperienza di un afroamericano in un aeroporto in tempi di diaspora, in tempi di immigrazione, dove forse appunto il trattamento e le attenzioni riservate a una persona afroamericana in un aeroporto non sono le stesse rispetto a un privilegiato bianco. Don't. Skyscrapers that you spent so much time building are collapsing and rising at the same time. Not I sit and wait and climb the colors of the sea. So close I came to find, and I'm glad that it's not me. I'm glad that it's not me. I'm glad that it's not me. Foundation shifting and cracking. I hope and pray that she remembers us. I'll beat her transcendence to the place we all dream of one day going. I hope that she remembers that we protected her when they came before, and that she will protect us. Understand. wanna shoot drugs, get drunk to the moon. Wanna fuck niggas who are killing niggas, but they be like once then it's over. I done spent my bread, now they coming for me. I'm only like 15. You only live once then it's over. I'll get up on new jeans. Other people, when they ain't feeding you and you can't feed them. Colors of the sea. Colors of the sea. Colors of the sea. Colors of the sea. Questo era veramente Paradiso, ovvero la famosa title track. Vuoi che noi, questo rumore di mare, di spiaggia, di acqua che si infrange sulla spiaggia, non ricordi qualcuno che in qualche modo lungo un gommone in maniera pirata arrivi, che ne so, in Puglia, se non in Sicilia o chissà dove. O chissà dove, chissà quanti posti potrebbe avere in mente Cinamobi. E sì, è tutto concettuale, sì, ovviamente. Non, esatto. Non è la sua storia, ma è la storia di molti che dalla Nigeria se ne vanno. Sicuramente, cosa che lui avrà ascoltato di prima mano. E hai detto title track, non solo, è anche la traccia più lunga e da quello che abbiamo sentito anche la più varia, la più un pochino alienante secondo me. E purtroppo non faremo in tempo in questa puntata, cari ascoltatori e ascoltatrici, ascoltarci tutto l'album, perché questo ragazzo ha fatto un album bellissimo che dura più di un'ora, cosa non molto comune secondo me. Vi consiglio di mettere play, ascoltarvelo quando avete tempo, quando avete più di un'ora, diciamo. E beh, vabbè, che altro? Buonanotte, sì. Arrivederci, a risentirci, grazie per l'ascolto, alla prossima. Alla prossima.